Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Berlino, gli inquirenti cercano un tunisino di poco più di 20 anni. Operazione in Nordreno-Vestfalia per trovarlo. Dimessi 3 feriti italiani, si cerca la ragazza dispersa. E crescono le misure di sicurezza in molte città. Oggi vertice a Palazzo Chigi, la Francia innalza i controlli alla frontiera con la Germania. Ma anche il Senato approva la possibilità di alzare il debito per salvarle. Impatto sui risparmiatori reso inesistente, dice Padoan. Forti oscillazioni del titolo del Monte dei Paschi in borsa. Giornata nervosa per Mediaset invece, mentre sale la pressione dei francesi di Vivendi, l'azienda di Bolloré al 26%. Pier Silvio dice: qui siamo e qui rimaniamo. Negò la pillola del giorno dopo ad una donna che si era presentata con la ricetta. Assolta a Gorizia una farmacista obiettrice. Canone Rai, confermate le previsioni del governo, il gettito supera i 2 miliardi, riferisce il direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi. Serie A, ieri sera l'Atalanta ha battuto l'Empoli, restando in scia alle grandi, questa sera in campo Inter e Lazio. Ed eccoci qua, una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per contattarci via sms o via whatsapp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque le indagini sull'attentato di Berlino. Raffaella Calandra per un punto. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Nel giorno della solidarietà ma anche delle proteste in Germania, da Berlino arrivano fino all'estremità occidentale del paese le indagini sulla strage dei mercatini, tra nuovi falsi fermi e rinnovate polemiche politiche. Si sta concentrando in queste ore infatti in Nordreno-Vestfalia, il Land di Colonia per intenderci, la caccia alla possibile attentatore che si è lanciato col tir sulla folla uccidendo 12 persone. Tunisino, 21 anni, con un decreto di espulsione in mano. Questo al momento l'identikit dell'uomo possibile responsabile del peggior attentato in Germania. Anis A. Queste le sue generalità che risulterebbero dalla Duldung, ossia il documento di espulsione che è stato trovato nel camion e che permetterebbe appunto di identificare quest'uomo con un tunisino che avrebbe vissuto in un centro di accoglienza profughi di Kleve, una cittadina di 50.000 abitanti appunto al confine con l'Olanda. Ed è qui che in questo momento si stanno concentrando le indagini, ma l'uomo sarebbe anche noto alle forze di polizia perché avrebbe più volte dato anche delle generalità diverse. Ed è questo anche quello che ci ha confermato poco fa un funzionario della Criminal Poll tedesco, Rüdiger Tust. Hanno trovato un documento nel camion, ma fino ad ora o fino ad adesso non è chiaro chi è questa persona. Sono documenti veri, sono documenti falsi, hai persi o sono stati rubati questi documenti? Tutte le cose sono non chiaro. La polizia ha lavorato di più come un anno passato, per esempio, di più perché era chiaro che è molto molto pericoloso al momento il tempo per gli attentati. Dopo Nizza c'erano per esempio a Colonia la luce di Colonia, un grande spettacolo dove tanti poliziotti hanno lavorato di più e dove i colleghi hanno cercato a bloccare tutte le strade per combattere un attentato come un camion. Ma non è da tutti i posti del mondo possibile fare così. Dunque un'allerta che evidentemente negli ultimi mesi, soprattutto anche dopo la strage di Nizza, si era intensificata in Germania, il paese della Willkommenpolitik verso anche i tanti rifugiati, ma come avete sentito anche da questa voce, la dichiarazione dell'impossibilità anche di prendere delle adeguate misure di sicurezza per questo tipo di attentati compiuti da persone che spesso e volentieri lasciano poche tracce che permettano di prevenire questo genere di azioni terroristiche. In queste ore però decine, anzi centinaia, perché sono già 500 le segnalazioni che sono arrivate alla polizia di Berlino anche da parte dei normali cittadini, una comunità, quella tedesca, che in queste ore si divide tra manifestazioni anche di solidarietà come quella che in questi minuti sta per cominciare a Berlino, dove anche tedeschi, berlinesi e rifugiati canteranno insieme We Are The World, mentre nel pomeriggio dalle 15 alle 21 c'è attesa una manifestazione di protesta organizzata dalle forze più estremiste di Pegida e di AfD. Simone. E grazie dunque a Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Sì, lo dico agli ascoltatori che ci scrivono, abbiamo detto che la ragazza Fabrizia Di Lorenzo, che appunto era a Berlino, risulta dispersa, perché questa è la definizione ufficiale, qua qualcuno ci dice dispersa o in attesa di identificazione, presumibilmente in attesa di identificazione, ma la definizione ufficiale è che è dispersa finché non avremo certezza. Grazie dunque a Raffaella Calandra, veniamo al fronte delle misure di sicurezza. Controlli rafforzati in tutte le aree di maggiore aggregazione, barriere in strada per impedire l'accesso a qualsiasi tipo di mezzo, possibilità di vietare eventi e manifestazioni in mancanza delle migliori condizioni di sicurezza. Così, alla luce dell'attentato di Berlino, il Viminale, pur in mancanza di allarmi specifici per l'Italia, rimodula le misure legate alla sicurezza in vista delle festività natalizie. Un'attività di prevenzione che era già in atto, spiega Radio 24 Franco Roberti, procuratore nazionale antiterrorismo. Guardi, noi in Italia non abbiamo mai ridotto il nostro stato di allerta, questo io lo posso assicurare. Questo, ripeto, non ci rende immuni dal rischio in assoluto. Proprio per prevenire eventuali gesti emulativi, prefetti e questori sono chiamati ad alzare controlli e a valutare misure di difesa passiva, protezione di aree turistiche o luoghi affollati, dissuasori, gersi, transenne, ostacoli fissi, come li ha definiti il prefetto di Milano Alessandro Marangoni. Nel pomeriggio alle 17.30, come annunciato dal premier Gentiloni, nuovo tavolo sulla sicurezza con diverse autorità di governo e diverse forze di maggioranza e opposizione. Allerta alta anche in altri paesi, una Francia già blindata ha innalzato i controlli alle frontiere con Germania, Svizzera e Lussemburgo, mentre a Londra, da oggi, strade chiuse alle auto davanti a Buckingham Palace durante la cerimonia quotidiana del cambio della guardia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti torneremo a parlare delle misure di sicurezza che si stanno prendendo nelle varie città italiane. Nella giornata di ieri vi abbiamo accennato di quello che sta succedendo a Milano e Roma, oggi andremo tra l'altro a Firenze. Veniamo alle cronache importanti, alle cronache finanziarie importanti di queste ore, a partire da quelle che riguardano le banche, iniziando però dal fronte politico e dal via libera ricevuto dal governo sul cosiddetto salva risparmio. Via libera del Parlamento all'aumento del debito pubblico per consentire al governo di supportare le banche in difficoltà. Questa mattina Camera e Senato hanno approvato la relazione con la quale Palazzo Chigi ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il debito fino a un massimo di 20 miliardi per i salvataggi bancari. Un'operazione precauzionale, dice il ministro Piercarlo Padoan, per rendere possibile temporaneamente eventuali operazioni di garanzia per la liquidità e piani di ricapitalizzazione delle banche. Da questo punto di vista è necessariamente una misura che non può fornire impatti, valutazioni specifiche su singoli istituti, perché la valutazione deve essere fatta caso per caso. Siamo di fronte a un sistema finanziario nella sua complessità solido, sano, con alcuni casi critici ben noti che hanno ciascuno caratteristiche specifiche. Uno dei primi interventi che il governo potrebbe mettere in campo nei prossimi giorni è sul Monte dei Paschi di Siena. Se la ricapitalizzazione di mercato da 5 miliardi non dovesse concludersi positivamente entro domani. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo proprio al punto più strettamente finanziario della vicenda Monte dei Paschi. Deborah Rosciani, ciao, buongiorno. Buongiorno, allora cominciamo con la giornata di borsa, che definire schizofrenica è riduttivo. Il titolo aveva aperto con un nuovo modesto ribasso. Alle 11.30, nel momento del mio ultimo collegamento di borsa, è arrivato a perdere il 18%, per poi risalire a perdere 4 punti nel giro praticamente di neanche mezz'ora. Adesso segna meno 6,5 punti, ma le sospensioni appunto per ribasso sono fioccate questa mattina. Oggi è in calendario il consiglio di amministrazione nel pomeriggio a Siena da parte della banca, ovviamente, visto che chiude l'offerta volontaria delle obbligazioni subordinate in mano al pubblico retail. La chiusura è prevista per le 14, ma la conversione dei bond ieri era ferma a 500 milioni di euro. Secondo i vertici della banca, per oggi potrebbero essere presentati altri 300 milioni per un totale di 800 milioni che, aggiunti al miliardo già raccolto presso gli investitori istituzionali, porterebbe la cifra finale a 1,8 miliardi. A quel punto il consiglio di amministrazione potrebbe anche decidere di dichiarare chiusa l'operazione, dando così il via all'intervento pubblico. Bisognerà vedere in che misura domani si completa l'aumento di capitale. Un'altra nota molto preoccupante che è arrivata questa mattina: la banca ha fatto sapere di avere liquidità complessiva sufficiente per coprire l'attività per i prossimi 4 mesi, poco più di 10,5 miliardi, circostanza che stamattina ha alimentato naturalmente anche ulteriormente il nervosismo. Meno 7 punti adesso, vi do l'ultimo aggiornamento, in una giornata in 5 Milano perde lo 0,74. È tutto, Simone. E grazie dunque a Deborah Rosciani. E dall'altra parte del listino principale c'è Mediaset, che in questo momento guadagna l'1,4% dopo che ieri Vivendi ha annunciato di essere salita al 26%. Un punto di giornata lo facciamo con Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno, eccoci qua. Abbiamo anche dichiarazioni di Silvio Berlusconi, mi sembra di aver capito, no? Sì, Berlusconi ieri aveva detto al Quirinale, insomma, non è una cosa che mi preoccupa l'ascesa di Vivendi, vista diciamo la mia età, quindi aveva fatto una battuta. Ora un po' ribadito, si è ancora ribadito di chiamarsi fuori dalla situazione, dicendo: non mi sono mai occupato di queste cose, sono i miei figli che se ne occupano e che se saranno capaci di tutelare l'italianità di Mediaset. Oggi il titolo non si muove molto, siamo intorno ai 4,5 euro, anche perché qualche analista consiglia di prendere beneficio sul titolo, visto il forte rialzo di ieri. La palla passa anche all'autorità per le comunicazioni, perché oggi si dovrebbe riunire, e ieri Mediaset aveva fatto un esposto direttamente rivolto all'autorità delle comunicazioni, richiamando i rischi di concentrazione, i paletti di concentrazione che coinvolgono Telecom e Mediaset secondo la legge la legge Gasparri sulla comunicazione e sui media. Bisogna vedere se la GCOM, dopo un comunicato che aveva già fatto nei giorni scorsi, farà qualche richiamo a Vivendi sul rischio di concentrazione che si sta profilando. Ma Vivendi potrebbe ancora aumentare la propria quota, perché ricordiamo ha dichiarato di voler arrivare fino alle soglie del 30% e quindi potrebbe ulteriormente rafforzarsi. Vedremo dunque come andranno le cose in giornata e che comunicazioni avremo stasera. Intanto grazie a Andrea Fontana di Radio Cor Il Sole 24 Ore. Siamo alle cronache da Roma e dal Campidoglio dopo la bocciatura del bilancio. A Roma non c'è pace per la giunta di Virginia Raggi. Dopo la bufera per l'arresto di Raffaele Marra, ora arriva la clamorosa bocciatura del bilancio, la cui approvazione un mese fa era stata definita un risultato storico dalla prima cittadina pentastellata. È tutto da rifare, invece, secondo l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune, che per la prima volta nella storia della capitale ha espresso un parere non favorevole sulla manovra triennale. Non ci sono adeguate coperture per i debiti fuori bilancio e sono sovrastimati gli introiti da multe e lotta all'evasione, scrivono i tecnici dell'OREF. Una stroncatura che rischia di paralizzare l'attività amministrativa, anche se l'assessore al bilancio Mazzillo assicura che i conti verranno rivisti e approvati entro il 28 febbraio come previsto dalla legge. È l'ennesimo fallimento della giunta 5 Stelle, il Campidoglio è sempre di più allo sbando, attaccano invece tutte le opposizioni che tornano a chiedere le dimissioni della sindaca Raggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di fisco ora, a partire dalle dichiarazioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi. Sentiamo. Numeri sicuramente positivi per il canone RAI in bolletta. Si può stimare un incasso al 31 dicembre di oltre 2 miliardi di euro, spiega in audizione alla Commissione Anagrafe Tributaria il direttore delle Agenzie delle Entrate Rossella Orlandi. Rispetto allo scorso anno, aggiunge la Orlandi, l'extragettito sarà quindi di circa 300 milioni in più, nonostante il costo del canone sia stato tagliato a 100 euro. Altro capitolo, quello dell'IVA dichiarata e non versata. L'ammontare è passato da un valore di circa 6,9 miliardi di euro del 2010 ha un valore stimato di oltre 8 miliardi del periodo d'imposta 2014. Ciò fa chiaramente comprendere, spiega sempre il direttore dell'Agenzia delle Entrate, come l'acquisizione con un congruo margine d'anticipo rappresenti uno strumento essenziale per arginare anche tali tipologie di fenomeni. Niente cartelle Equitalia. Infine, a Natale sono stati congelati 380.000 atti di riscossione, quasi tutte le richieste in consegna tra il 24 dicembre fino all'8 gennaio. Saranno notificati solo alcuni atti inderogabili. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora una vicenda importante dagli Stati Uniti, perché Barack Obama ha bloccato, in sostanza quasi permanentemente, le trivellazioni in Artico e Atlantico. era l'ultima o quasi polpetta avvelenata che Barack Obama poteva lasciare a Donald Trump. E chissà, forse l'ha cucinata con i Clinton, visto che fu proprio Bill l'ultimo ad appigliarsi a una clausola dell'Outer Continental Shelf Lands Act, che dà al presidente l'autorità di bandire dalle aree costiere varie attività, tra cui quelle estrattive. Una mazzata per Trump e i suoi amici petrolieri, che da tempo sognano di raggiungere i tesori che forse nascondono le profondità marine del Nord, ora che il riscaldamento globale ha reso i ghiacci meno impenetrabili. Clinton aveva usato la stessa arma contro George W. Bush, il texano petroliere che ci mise poi quasi 8 anni a sbloccare per vie legali le trivellazioni in una parte dei terreni che Clinton aveva messo sotto tutela. Per il primo mandato di Trump, quindi, le acque dell'Artico e alcuni tratti dell'Atlantico di proprietà federale su cui Obama ha messo il veto saranno inviolabili. La caccia al petrolio artico americano si ferma qui per ora e non proseguirà nemmeno in Canada, dove il primo ministro Trudeau ha emanato lo stesso divieto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Dopo l'ok di Bruxelles all'obbligo di indicare in etichetta l'origine per i prodotti lattiero-caseari, ora si parte con la filiera del grano e della pasta. Il Ministero delle Politiche Agricole ha infatti inviato a Bruxelles per la prima verifica lo schema di decreto che introduce l'obbligatorietà dell'etichetta che indichi al consumatore sulle confezioni di pasta secca prodotte in Italia il paese o l'area dove è coltivato il grano e quello nel quale è macinato. Per Coldiretti si valorizzano le nostre materie prime, diversa la posizione dell'industria, si apre il dibattito se la qualità della pasta dipenda dalla provenienza del grano. Secondo Riccardo Felicetti, presidente dei pastai di Aidap, al microfono di Anna Marino, non ci sono frontiere. La qualità della pasta dipende da molti fattori. Uno è sicuramente la qualità del grano, ma la qualità del grano non dipende dalla sua provenienza, dipende dalla genetica del grano e dipende dalla capacità dell'agricoltore di fare del grano buono, oltre che dalla terra. In Italia abbiamo poco grano perché assorbe soltanto il 70% delle necessità dei pastifici italiani, il che significa che deve essere miscelato. Ma quando questo grano italiano di qualità finisce, deve essere miscelato anche con grano straniero. Non è che i pastifici siano contrari all'etichettatura, ma quello che ci spiace è che si dica che il grano straniero è cattivo, è tutto sano e serve per fare in modo di migliorare la qualità del grano italiano. Ci sarebbe un impatto sulle vendite con l'etichetta? Prevedo che ci sarà un calo delle vendite e soprattutto un calo delle esportazioni. E poi, a forza di confusione, chiaramente ci sarà anche una disaffezione al prodotto in Italia e questo chiaramente farà perdere superfici coltivate a grano duro e non so se questa è proprio la volontà degli agricoltori. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo dal Friuli Venezia Giulia, dove è stata assolta una farmacista, già ve lo accennavamo nei titoli, che dichiarandosi obiettrice di coscienza ha deciso di non dare ad una donna la pillola del giorno dopo, nonostante lei avesse presentato la ricetta. Appunto, è andata a processo ed è stata assolta. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'attentato a Berlino e dell'operazione in corso in Nordrhein-Westfalia per cercare un tunisino che si ritiene possa essere collegato agli attentati. Abbiamo parlato delle misure di sicurezza nelle città, abbiamo parlato di banche, di Monte dei Paschi, abbiamo parlato della situazione di Mediaset e infine abbiamo parlato di fisco con i dati sul canone RAI. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da Gorizia, dove c'è stata una decisione del Tribunale che ha fatto decisamente discutere. Si tratta di questo. Una donna si presenta in farmacia con una ricetta. La ricetta che prescrive la pillola del giorno dopo. Chiede alla farmacista di avere la pillola del giorno dopo. La farmacista si dichiara di fatto obiettrice di coscienza e non gliela dà, pur consegnandole un foglietto nel quale le dice: c'è una farmacia poco più avanti, può comprarla in questo luogo. La donna va a processo, la farmacista va a processo, imputata di omissione o rifiuto di atti d'ufficio e viene assolta. Siamo in linea con Simone Pillon, che è l'avvocato di questa farmacista. Buongiorno Pillon, benvenuto. Buongiorno a voi. Da precisare che anche lei è anche fondatore del Comitato per il Family Day, quindi non la difende a caso, la difende anche per convinzioni personali. Senta una cosa, esiste una legge secondo la quale i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti. Come è stato possibile che la sua cliente sia stata assolta? Ma intanto la legge a cui fa riferimento, immagino, è il Regio Decreto nel 1938 all'articolo 38, l'Italia va avanti per regi decreti, Quello era un decreto che era stato emanato da Sua Maestà il Re quando l'Italia era un paese eminentemente agricolo ed era ben difficile potersi approvvigionare di farmaci, e quindi l'imposizione che il re aveva all'epoca immaginato era proprio per garantire un servizio su tutto il territorio nazionale. Le condizioni dal 1938 però Pillon, mi scusi, la metto brutale, a me sembra una norma di buonsenso, a prescindere che sia un regio decreto oppure no. Ci sono regi decreti che sono inaccettabili ormai per quello che rappresentano e per quello che portano all'interno dell'ordinamento italiano, e lo sappiamo. Ci sono regi decreti invece che funzionano. Questo è il farmacista. Io mi deve dare, convinto, no? Che lo Stato debba garantire un servizio. Lo Stato deve garantire un servizio e deve bilanciare i diritti di tutti i cittadini. Siamo in una prospettiva di pluralismo etico? Benissimo. Allora, noi abbiamo dei cittadini che hanno il diritto di avere la pillola del giorno dopo, perché la legge prevede questo diritto. Dall'altra parte abbiamo farmacisti che hanno il sacrosanto diritto di essere in pace con la propria coscienza. Spetterà a chi deve organizzare il Servizio Sanitario Nazionale di garantire che il diritto dell'uno non confligga con il diritto dell'altro. Tra l'altro, Pillon, mi scusi, la sua assistita lavora in una farmacia comunale, peraltro. Esattamente, ma lei aveva informato da anni i suoi dirigenti che lei non avrebbe venduto quella pillola. Tra l'altro è accaduto, e nel processo questo è emerso, che sia stata richiesta della vendita di quella pillola durante il giorno, e sempre lei ha chiesto a un collega di sostituirla per la vendita. Quindi era una cosa arcinota. Il problema vero è che non si è voluto organizzare un servizio in modo da evitare 3 anni di processo penale per una donna, madre di famiglia, madre di 5 figli, che ha dovuto da sola sobbarcarsi l'ansia, la tensione, immaginate che cosa sia un processo penale, Pillon, per un diritto costituzionale. Mi scusi, Pillon, qualcuno obietta, non è qualche ascoltatore che ci scrive via SMS, via WhatsApp, e nessuno l'ha obbligata a farla farmacista, Che ragionamento. Allora dobbiamo fare in modo che tutti gli obiettori non facciano più i medici, oppure che non facciano più gli operatori sanitari. C'è chi sostiene anche questo, almeno non in ginecologia, diciamo. Io sono convinto che il pluralismo etico che tanto si sbandiera comprenda anche il fatto che una persona, tra l'altro esclusivamente con riguardo a un prodotto farmaceutico, possa sollevare una questione di coscienza e che spetti al servizio garantire i diritti. Senta, c'è un altro punto. La pillola del giorno dopo non è un farmaco abortivo. Questo chiariamolo con gli ascoltatori. Questo è quello che dice lei, però peccato che lei non faccia né il ricercatore né il farmacista, cosa che non faccio neanch'io. Ma i due consulenti tecnici che sono venuti e che in processo hanno presentato al tribunale documenti scientifici inoppugnabili, tra l'altro anche a firma della stessa casa farmaceutica, la quale afferma che il prodotto fino al 2013, dicembre 2013, era un prodotto abortivo, e c'era scritto nel foglietto illustrativo, perché si diceva nel foglietto illustrativo e poi provocare la morte dell'embrione. E poi non lo è stato più, perché si è capito che interviene prima che si impianti l'ovulo. No, non è così, no. Perché nel 2013 cambia il foglietto illustrativo, semplicemente omettendo questa parte, ma lasciando scritto che uno dei possibili meccanismi è l'effetto antiovulatorio. Studi scientifici assolutamente attendibili presentati durante il processo hanno dimostrato che non è così. C'è anche un effetto antinidatorio, un effetto abortivo. Pillon, lei capisce che però questo è un precedente per molti versi pericoloso, nel senso che qualche ascoltatore ci dice: se tutti i farmacisti comunali fossero obiettori improvvisamente, che cosa succede? Cioè c'è un problema di applicazione, che è lo stesso tema, se vogliamo, per quanto riguarda l'aborto e tutte quelle regioni nelle quali la percentuale di ginecologi obiettori è elevatissima, se non addirittura totale all'interno di singole province. Lei capisce che c'è un problema, lo dico all'uomo di legge, non al fondatore del gruppo dell'associazione del Family Day, problema, no? Perché nel nostro paese il 77% dei medici è obiettore di coscienza con riguardo all'aborto, e nonostante questo nel nostro paese sono appena usciti i dati. Anche l'anno scorso si sono svolte decine di migliaia di aborti, e quindi il problema non è certo degli obiettori. E semmai, come torno a ripetere, un problema di organizzazione delle strutture. Accanto a questo, qual è il vero problema ideologico? Che non si vuole che qualcuno obietti, perché non ci si vuole più interrogare sul valore della vita umana. Allora l'obiezione invece va a solleticare, a risvegliare, vorrei dire, le coscienze di molti, perché il tema vero non è quello dell'obiezione di coscienza, ma è quello della difesa. Sì, ma ripeto, io parlo all'uomo di legge in questo caso, e dico c'è una legge che non è applicata a questo punto, o no? La legge è stata applicata compiutamente, perché la legge prevede che sopra alla legge c'è la Costituzione, e la Costituzione prevede che le persone abbiano libertà di coscienza, quindi è stata applicata nel miglior modo possibile la legge. Tra l'altro un dato di fatto che forse aiuta anche i nostri ascoltatori. La dottoressa non ha fatto sceneggiate di tipo ideologico, non è una persona che ha fatto della sua posizione una battaglia, si è limitata con grande gentilezza, cortesia e con una umiltà che è apparsa in tutto il suo splendore durante il processo, a invitare questi signori a recarsi presso la farmacia del paese accanto, dove peraltro abitavano, perché questi signori abitavano nel paese accanto, quindi avrebbero dovuto comunque tornare là perché potessero avere il prodotto che cercavano. Quindi non c'era Me la dice una cosa, Pillon, in chiusura, perché qualche ascoltatore ce lo chiede, e in 10 secondi, ma la dottoressa li vende i preservativi oppure Assolutamente no? Assolutamente sì. Sì, li vende. Ok, era solo per sapere questo. La ringrazio. Grazie, Pillon, per essere stato con noi, e noi proseguiamo nel nostro giro che stiamo facendo quotidianamente, e lo faremo ovviamente fino a venerdì, poi si fermerà la trasmissione per 2 settimane, ritorneremo a gennaio e non abbandoneremo le popolazioni terremotate. Il nostro giro è tra i luoghi colpiti dal terremoto. Siamo stati a Norcia, siamo stati a lunedì, siamo stati ad Amatrice ieri, e oggi andiamo a Visso col sindaco Giuliano Pazzaglini. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, come vanno le cose? Allora, purtroppo non bene, perché noi siamo probabilmente uno dei comuni più colpiti in assoluto, seppur non molto sotto i riflettori, perché questo è il terremoto dei simboli, quindi la cattedrale, l'università, con tutto il rispetto e per il dolore, prima ovviamente le vittime, ma lì con piena condivisione anche da parte mia, però noi non ci troviamo in questa situazione, quindi pur avendo il 90% della popolazione evacuata e pur avendo in percentuale il patrimonio immobiliare più danneggiato in assoluto, beneficiamo appunto della ribalta. Stiamo lavorando molto per cercare di far rientrare le persone prima possibile, ma ovviamente ci vorranno mesi. Come vede, noi l'abbiamo chiamata, sindaco, quindi ci siamo e siamo a disposizione, può contattarci quando vuole. Vi ringrazio. Come vi state preparando al Natale? Allora, come dico sempre a tutti, questo è il primo Natale della nostra nuova vita, perché purtroppo quella vecchia non tornerà mai più. Il colpo è stato tale per cui ce ne dovremo inventare una nuova. Noi ci stiamo lavorando come amministrazione, ma invitiamo anche tutti i cittadini ad aiutarci in questo, perché le nostre vecchie vite non torneranno mai più. Sarebbe un'illusione crederlo. Il colpo è stato per conseguenza addirittura superiore a quello che il mio comune aveva ricevuto in occasione della Seconda Guerra Mondiale. Sembra assurdo fare un parallelo del genere. Però da un punto di vista economico-sociale è stato ancora più devastante. Quindi la nostra nuova vita è iniziata da 2 mesi, e in questa nuova vita dovremo recuperare dei valori. Ovviamente quello del Natale, anche cronologicamente parlando, è uno dei primi che stiamo cercando di recuperare. Certo, lo spirito non può essere quello, però spero quantomeno che si ritrovi una comunità, spero che se non altro si riesca a ripartire da noi. La ringrazio, grazie a Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, siamo con voi e ovviamente, come l'ho detto, siamo a disposizione per raccontare le vostre storie, come vanno le cose, come va questo tentativo di ricostruzione, come va questo momento doloroso. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre, e poi torniamo a parlare di terrorismo, inizieremo a girare un po' per le città per capire come si stanno organizzando proprio per questo Natale e dopo gli attentati di Berlino. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Berlino, gli inquirenti cercano un tunisino di poco più di 20 anni, operazioni in Nordrhein-Westfalia per trovarlo, sono stati dimessi 3 feriti italiani, si cerca la ragazza che al momento risulta ancora ufficialmente dispersa. Crescono le misure di sicurezza in molte città, oggi un vertice a Palazzo Chigi, la Francia innalza i controlli alla frontiera con la Germania. Banca e il Senato approva la possibilità di alzare il debito per salvarle, impatto sui risparmiatori reso inesistente, dice Padoan. MPS, grandi oscillazioni in borsa oggi, giornata nervosa per Mediaset mentre sale la pressione dei francesi di Vivendi. Il canone RAI, confermate le previsioni del governo, il gettito supera i 2 miliardi, riferisce il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Orlandi. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, riprendiamo il nostro giro per l'Italia per parlare in questo caso di terrorismo, del dopo attentati di Berlino, mentre siamo ancora in attesa evidentemente di avere notizie della ragazza italiana che al momento è data per dispersa, come ho spiegato all'inizio agli ascoltatori che ce lo chiedevano e dicevano come dispersa, non si sta effettuando il riconoscimento del DNA, l'identificazione del DNA. Beh, la definizione dispersa è una definizione ufficiale. Anche i familiari a quanto pare hanno perso le speranze. Intanto le città italiane si attrezzano, l'Italia cerca di attrezzarsi, questo pomeriggio ci sarà un vertice a Palazzo Chigi proprio per discutere di sicurezza nelle città in vista del Natale, viste anche le modalità nelle quali si è svolto l'attentato di Berlino. Questa mattina, tra l'altro, 24 mattino, è intervenuto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Roberti. Sentiamo cosa ha detto ad Oscar Giannino e Alessandro Milan. Guardi, noi Italia, cioè, non abbiamo mai ridotto il nostro stato di allerta, questo io lo posso assicurare, quindi diciamo, l'allerta c'è sempre ed è sempre al massimo, quindi questo, ripeto, non ci rende immuni dal rischio in assoluto. Noto che secondo stime abbastanza attendibili dall'Europa sono partiti negli ultimi anni circa 30.000 foreign fighters, quelli che sono rientrati sono intorno ai 1.500-1.600, di questi gli italiani, quelli che erano partiti all'Italia e che sono rientrati in Italia, sono pochissimi, però diciamo sono soggetti che vanno ovviamente monitorati con molta attenzione. Così dunque Roberti, e poi come si diceva c'è il tema delle città. Andiamo a sentire per esempio oggi, ieri abbiamo parlato molto di quello che sta succedendo a Milano, di come si sta organizzando Roma, adesso andiamo a Firenze. Siamo in linea con il prefetto Alessio Giuffrida, che ringrazio. Buongiorno dottor Giuffrida, benvenuto. Buongiorno. Allora, come vi state organizzando? Dunque, già abbiamo tenuto stamane un tavolo a cui hanno partecipato il sindaco Nardella, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, abbiamo effettuato una valutazione della situazione dalla quale è emerso un buon livello di sorveglianza. Ulteriormente sarà irrobustito sugli obiettivi istituzionali, religiosi, consolari e naturalmente una particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi di maggiore aggregazione dei cittadini come mercati e centri commerciali, dove si svolgono manifestazioni legate alle festività natalizie. Sì. E un occhio sarà dato ai mezzi pesanti in circolazione nelle zone cittadine. Un occhio in che modo? Un controllo più attento sostanzialmente? Un controllo più attento in modo tale da evitare e prevenire eventuali attività diciamo aggressive. Però dobbiamo dire che non abbiamo segni di allarmi specifici per quanto riguarda Firenze, quindi il messaggio deve essere questo, di vivere il Natale con la più tranquilla serenità, visto che deve essere vissuto così dalle famiglie fiorentine. Ecco. Senta prefetto, abbiamo sentito nelle ore scorse il suo collega di Milano per esempio parlare di sicurezza attiva e sicurezza passiva, per così dire, no? Che quella attiva, lo dico, la semplifico molto per gli ascoltatori, la sicurezza attiva sono gli uomini in campo sostanzialmente, quella passiva sono per esempio i panettoni, quelli di cemento che si mettono in mezzo alla strada per evitare che appunto un mezzo possa entrare in città, entrare in zone sensibili e colpire. Vi state attrezzando anche voi con... Guardi, questa eventualità non l'abbiamo presa in considerazione data anche la configurazione stradale di Firenze. Un sistema del genere si può comunque con altri dispositivi sulla base delle pattuglie disponibili attuare, ma naturalmente in presenza di attenzioni, in presenza di segnalazioni. Quindi per ora ci stiamo mantenendo su un rafforzamento della vigilanza attiva senza trascurare la possibilità di ulteriori misure se dovessero essere necessarie. E se ci siano specifici obiettivi sensibili non ce lo può dire, immagino, prefetto. Sono gli obiettivi di solito indicati nei nostri piani riservati, ecco, quindi preferirei ma infatti gliel'ho chiesto apposta in questa formula proprio perché so che alcune cose si possono dire e altre non si possono dire. Comunque ci dice i fiorentini possono stare tranquilli. Questo è il messaggio che deve passare, che al momento non ci sono, diciamo, delle evidenze di allarmi di natura particolare o specifica sulla città di Firenze. Allora io la ringrazio, grazie. Prego. Al prefetto Alessio Giuffrida per essere stato con noi, e proprio a proposito di aggiornamenti in arrivo da Berlino ci sono e di sicurezza soprattutto, arrivano notizie dall'Unione Europea che a quanto pare ha dato un giro di vite nella lotta al terrorismo e ai migranti irregolari. La Commissione Europea ha proposto di rafforzare la banca dati di Schengen, lo Schengen Information System, introducendo l'obbligo di allerta in caso di crimini legati al terrorismo e di nuove categorie di allarme per persone sconosciute ricercate e anche per i rimpatri dei migranti irregolari. Lo ha annunciato il commissario europeo Dimitri Avramopoulos. Europol, Eurojust e la nuova Guardia di Frontiera e la Guardia Costa europea avranno diritto d'accesso al database. Si diceva dell'innalzamento della sicurezza che in realtà a livello di Schengen è già avvenuto perché la Francia ha innalzato i controlli alle frontiere con la Germania, la Svizzera e il Lussemburgo, è quello che ha riferito la radio, una radio parigina citando una nota diffusa dal Ministero dell'Interno appunto dopo l'attentato di Berlino e i rischi legati alla fuga del presunto attentatore. Infine ci sono notizie che arrivano da Mosca che dopo la strage di Berlino si appresta a mettere in sicurezza i molti mercatini di Natale sparsi nella capitale russa. Il servizio di polizia cittadino ha annunciato di voler usare camion per circondare le aree pubbliche sulla scia dell'attacco al mercato. E infine ci sono le dichiarazioni che sono arrivate pochi istanti fa dal sindaco di Berlino che dice: non bisogna avere paura, sarebbe fatale se ci si rinchiudesse in casa e non si uscisse più. È giusto invece essere più attenti perché ci troviamo in una situazione tesa. Notizie invece sul blitz che starebbe avvenendo in Nordreno-Vestfalia, notizie ulteriori al momento non ne abbiamo, seguiamo l'evoluzione delle vicende e vi aggiorneremo ovviamente appena avremo notizie. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.